Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Via Napoli nel scriverti non so, permettimi di vincere di voi. Questo è un romanzo che sta avendo un certo successo non solo in Italia ma anche all'estero, tanto che è stato venduto in oltre 30 paesi. Si intitola Il treno dei bambini, scritto da Viola Ardone, pubblicato da Einaudi nella collana Stile Libero Big. È una storia di fantasia che però trae spunto da un fatto storico. Siamo nel 1946, quindi il secondo dopoguerra, a Napoli. Il Partito Comunista organizza dei viaggi con i quali sostanzialmente porta i bambini di famiglie povere a trascorrere alcuni mesi dell'anno in famiglie del centro-nord per avere migliori condizioni naturalmente economiche, culturali, sociali. Nel caso di questo romanzo il protagonista è Amerigo, 7 anni, è figlio di una famiglia veramente poverissima, prende questo treno insieme a tanti coetanei e passerà alcuni mesi della sua vita in una famiglia, diciamo così, adottiva, temporanea, a Modena. Viola, allora, tu hai scritto un romanzo di fantasia, però ti sei basata su fatti storici che normalmente non sono presenti nei libri di storia, insomma sono episodi tutto sommato poco conosciuti. No, in effetti è una pagina di storia mancante e la cosa strana è che questa storia non dovrebbe essere sconosciuta perché è stata documentata. C'è un bellissimo documentario di Alessandro Piva che si chiama Pasta Nera, che fu presentato una decina di anni fa alla Mostra del Cinema di Venezia. Eppure questa storia, ovunque io l'ho portata, non era mai stata conosciuta. Tante persone anzi pensavano che l'avessi inventata io, che l'avessi immaginata, e invece no, è una storia documentata. È una storia che mi è stata raccontata da tanti testimoni, ex bambini e bambine che l'hanno vissuta e che hanno voluto regalarmi il loro ricordo. E su questa intelaiatura, su questo fondale storico, io ho elaborato una vicenda di fantasia. Ecco, però tu hai parlato con alcuni di questi bambini che poi erano naturalmente tornati nelle loro famiglie d'origine dopo aver passato alcuni mesi appunto nelle famiglie del centro-nord. Sì, certo, erano degli affidi temporanei concordati tra le famiglie che mandavano i loro bambini al nord e le famiglie che li accoglievano, e il periodo di permanenza nella famiglia di accoglienza variava dai 6 mesi o anche di più, un anno. In alcuni casi i bambini ritornavano più di una volta, insomma si creavano, sai, dei legami affettivi forti anche tra le due famiglie, che rimanevano in contatto e continuavano a mandarsi lettere per anni e anni. E ad aiutarsi anche a vicenda c'è una parola infatti che viene scandita da alcuni personaggi del tuo romanzo, è solidarietà, scritto anche in maiuscolo, come proprio a scandire le lettere con precisione. E allora vediamo Amerigo, appunto 7 anni, è di una famiglia poverissima, sostanzialmente ha solo la madre che è anche analfabeta, in condizioni insomma economiche abbastanza disastrate, vivono a Napoli, e la madre decide, anche con qualche preoccupazione lo diciamo, comunque di affidarlo appunto a queste donne del Partito Comunista che organizzano questi viaggi. Qual è il sentimento appunto della madre di Amerigo e di Amerigo stesso? È proprio quello che ho cercato di indovinare scrivendo questa storia. Questa storia mi è servita per dare una risposta a questa domanda. Immagino che per queste donne che affidavano i loro figli a questi viaggi, insomma, il sentimento fosse davvero quello di dover affrontare una decisione molto difficile che noi forse oggi non riusciamo a immaginare. Forse è una cosa che ci possono descrivere solo le donne che dall'altra parte del mare, del Mediterraneo, affidano i loro figli su delle barche e li affidano un po' alla sorte. Ecco, questo è il sentimento che io riesco a immaginare per loro. E infatti la madre di Amerigo, che tra l'altro ha perso un altro figlio precedentemente per una malattia, insomma affida il figlio sperando appunto in condizioni migliori. Ma insomma sono periodi in cui l'informazione non è che fosse così diffusa, quindi si circolano anche delle voci strane. Qualcuno dice: ma no, li manderanno in Siberia, i comunisti mangeranno questi bambini, gli taglieranno le mani. Quindi Amerigo è diviso fra due sentimenti: da una parte è eccitato per questa partenza, dall'altra è anche profondamente spaventato. Sì, è un sentimento contrastante. Andava incontro a una grossa opportunità alla sua America personale, però aveva anche paura di questa separazione dalla madre. Lui ha solamente la madre, lui si chiama Amerigo Speranza, come sua madre Antonietta Speranza, e il papà non l'ha mai conosciuto. Quindi, qualcosa traumatico in tutti e due i sensi, di felicità e di paura. Ecco, c'è una scena molto bella e anche molto toccante di questo romanzo, perché i bambini che stanno per partire vengono tutti, diciamo, dotati di un abbigliamento idoneo, delle scarpe che ad Amerigo fanno molto piacere, lui ha un po' una fissa per appunto le scarpe, e gli danno anche il cappottino. Nel momento in cui il treno sta per partire, i bambini lanciano questi cappottini dai finestrini. Perché? Allora, le mamme hanno raccomandato ai bambini di fare questo gesto, come a dire: voi ora siete in salvo, ci sarà qualcuno che si prenderà cura di voi. Se darete via il vostro cappottino, ve ne sarà dato un altro. Noi invece rimaniamo qui, abbiamo altri figli a cui badare. L'inverno è lungo ed è duro, e quindi voi che partite dovete darci i cappottini e noi li useremo per i vostri fratellini più piccoli o più grandi. Questo era il senso della storia. Quindi, insomma, la solidarietà anche fra i bambini che stanno per partire e i fratelli che rimangono a Napoli. Ecco, Amerigo in questo viaggio è accompagnato da due amici, da Tommasino, il suo amico, insomma, di scorribande, da Mariuccia. Poi naturalmente verranno divisi perché ognuno verrà affidato a famiglie diverse. Amerigo trova una famiglia un po' insolita in realtà, perché per un caso del destino viene affidato ad una donna che è da sola, ad una single, che però insomma ha una sorella che ha una famiglia, dei figli, eccetera. Quindi alla fine vive la dimensione della famiglia e si trova a vivere con tre fratelli acquisiti: Rivo, Luzio e Nario. L'avete capito da soli, formano la parola rivoluzionario perché appunto il padre è particolarmente, insomma, impegnato dal punto di vista del comunismo, anche in questo senso. Ecco, che tipo di vita Amerigo inizia a fare in questa famiglia affidataria temporanea? Beh, Amerigo scopre un mondo del tutto nuovo da tanti punti di vista, per esempio iniziando a frequentare la scuola, cosa che a Napoli non faceva, prova dei cibi nuovi, degli alimenti che non conosceva, e nel rapporto con i fratelli acquisiti, sperimenta anche il problema del pregiudizio. In particolare uno dei fratelli inizialmente si vedrà minacciato dal punto di vista affettivo dall'arrivo di questo nuovo fratellino, tra virgolette, e però solamente attraverso la conoscenza reciproca che poi il pregiudizio crolla, si frantuma da tutte e due le parti. E tra l'altro il padre è uno di quelli che accordano gli strumenti musicali, Amerigo, insomma, inizierà a sentire una passione per la musica. Insomma, diciamo che questa famiglia affidataria temporanea è destinata a cambiare proprio la sua vita. È molto bello anche il rapporto che lui ha con, diciamo, la mamma affidataria primaria, ossia Derna, questa donna single che non ha un marito, non ha un compagno, è una molto impegnata nel Partito Comunista, è una donna tosta, diremmo oggi. Lei non ama particolarmente i bambini, eppure il rapporto con Amerigo la farà un po' sciogliere. È una donna che non si è mai relazionata con i bambini, e però incontrando Amerigo è Amerigo che la rende madre in qualche modo, ed è così anche nella maternità genetica, io credo. Sono i figli che ci fanno diventare genitori, non c'è una genitorialità intesa prioristicamente rispetto al bambino. Quindi lui le insegna come potrebbe essere una madre, come dovrebbe essere, e lei lo diventa. Ci sono anche delle scene divertenti in questo romanzo, per esempio quando Amerigo scopre che cos'è la mortadella, perché lui pensa che sia un prosciutto con le bolle, con le macchie. A un certo punto cerca anche di rubarne un po' con il dito, scava nella mortadella e ha paura di essere accusato di essere un ladro, perché comunque lui si porta sempre dietro il peso della sua situazione sociale ed economica. Beh sì, l'accoglienza è difficile proprio per questo, è difficile per la famiglia che accoglie, per la regione che accoglie, è difficile anche per chi viene accolto, che ha sempre paura di sentirsi fuori luogo, di sentirsi al limite oggetto anche di una carità dall'altra parte, che è cosa ben diversa della solidarietà. E c'è effettivamente diversità, una diversità profonda fra la carità e la solidarietà, perché Amerigo ricorda di quando c'erano le donne della carità che portavano i pacchi a casa, ma dice sempre riso, sempre solo riso, eccetera. Invece a Modena scopre la solidarietà, che è una cosa un po' diversa. Sì, durante il periodo fascista c'erano le cosiddette dame di carità della società più elevata, della società altoborghese, che andavano a portare pacchi di riso nelle famiglie più povere. In realtà la carità, io credo che abbia una dimensione verticale, cioè cala dall'alto al basso. La solidarietà ha una dimensione orizzontale, quindi è condivisa, largamente condivisa, e ha a che fare con la tutela di diritti. Viola, senza fare spoiler naturalmente, però la mamma di Amerigo, diciamo, resta a Napoli. A un certo punto Amerigo farà ritorno a casa sua, e lì la madre che sensazione ha? Perché la mamma di Amerigo è una donna piuttosto aspra, è una un po' che si taglia con l'accetta, diciamo così, non è particolarmente affettuosa, non dimostra il suo affetto. È una donna che non sa esprimere con i baci, con le carezze, con le parole affettuose, il grande amore che ha per questo figlio, un amore che è capace anche di fare dei passi indietro, di farsi da parte per garantire invece il benessere del figlio. E questa cosa diventa palese nel momento in cui Amerigo, finito il suo periodo di permanenza a Modena, ritorna a Napoli. Ecco, qui si crea una seconda separazione, un po' più dolorosa rispetto alla prima, cioè rispetto al momento in cui Amerigo parte, perché nel ritorno tra i due si è creata una crepa che non sarà facile poi ricolmare, perché Amerigo ha vissuto un'esperienza in più che in qualche modo lo ha portato avanti rispetto a sua madre, che è rimasta allo stesso punto. Ecco, secondo te questi bambini rimanevano in un certo senso divisi dal punto di vista affettivo fra la famiglia d'origine e la famiglia affidataria temporanea? Sì, il che non è per forza un fatto negativo, perché significa avere un elemento in più, una conoscenza in più, un affetto in più. Però nel caso di questo bambino, lui ha da una parte solamente sua madre, che è tutto il suo mondo affettivo, dall'altra parte gli viene prospettata la possibilità di realizzarsi come persona, gli viene prospettata un'idea di futuro che prima lui non aveva, soprattutto attraverso la conoscenza della musica, ed è questo che crea in lui una frattura, il fatto di essere così piccolo e di essere messo di fronte a una scelta. Grazie allora a Viola Ardone, ora in libreria con Il treno dei bambini, pubblicato da Einaudi. Grazie Viola. Grazie a te, è stato un piacere. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. L'ottetto di Schubert D803 in fa maggiore, che sta suonando in casa di Gabriele Santoro, quando Gabriele incontra Ciro, che si è nascosto in casa sua. Questo è sostanzialmente l'incipit del romanzo Il bambino nascosto, scritto da Roberto Andò, pubblicato dalla Nave di Teseo. Roberto Andò, che molti conoscono naturalmente come regista, ma è anche uno scrittore, aveva addirittura vinto il Campiello Opera Prima, e torna quindi con questo romanzo in cui si racconta una storia, forse di anche paternità acquisita, mettiamola un po' così, perché c'è appunto Gabriele Santoro, che è un insegnante di pianoforte al Conservatorio di Napoli, è un uomo che vive da solo, è un uomo che sembra quasi aver rinunciato al mondo, perché è sempre un po' ripiegato su se stesso. Un giorno si accorge che in casa sua è entrato qualcuno, la persona che è entrata è un ragazzino, Ciro, che abita nel suo palazzo ed è figlio di un camorrista. Ciro gli chiede aiuto, gli dice nascondimi, perché poi lei lentamente lo spiega, ma lo possiamo naturalmente raccontare, ha compiuto uno scippo, ma la persona sbagliata, ha scippato un'anziana donna, questa donna è entrata in coma e la donna è la mamma di un boss della camorra. Quindi sostanzialmente questo ragazzino è cercato sia da suo padre che naturalmente dai camorristi del clan rivale. Ecco, questo è il momento in cui avviene questo incontro, loro proprio si guardano negli occhi, Gabriele e Ciro. Qual è il primo pensiero di Gabriele in quel momento? Diciamo che questa visita inaspettata, come hai detto, risveglia quest'uomo, perché come abbiamo detto è un uomo che in qualche modo ha perso i contatti col mondo, ha un suo colloquio con se stesso ma non con gli altri, ama la musica perché insegna pianoforte e quindi la musica è il suo elemento, e questo bambino, questa visita inaspettata, il tremore che riconosce in questo bambino, il fatto che riconosce paura, terrore, d'intuito gli fanno scegliere la cosa meno razionale, cioè quella di proteggerlo, di accoglierlo. E prima ancora di chiedersi da cosa stia scappando, fra l'altro ha molte difficoltà a capirlo dal bambino, perché il bambino si ritrae a questa domanda. E quindi piano piano direi che si spalanca un mondo che lui ha lasciato un po' da parte, dormire, e soprattutto via via, non essendoci delle risposte razionali al problema di questo bambino, perché lui va dal fratello che è un magistrato. Sì, Gabriele appunto si rivolge al fratello che è magistrato, dice cosa devo fare, e chiaramente il fratello gli dice, da un punto di vista della razionalità, non metterti in questo casino, no. Sostanzialmente, perché ti metti contro i boss, la camorra, cioè ti metti contro tutti, contro anche la polizia, perché non puoi nascondere un bambino, può essere accusato di rapimento. Non solo, ma gli dice anche che la legge non si occupa di un caso come questo, perché di fatto non è successo ancora nulla. Certo. Se ne può occupare solo quando succede, quindi dà per scontato che questo bambino è diciamo carne da macello. E quindi lui piano piano appunto si risveglia. È come se iniziasse un percorso di disobbedienza, cioè l'unico che può occuparsi di questo bambino è lui. Lui si sente anche un po' responsabile per Si sente per responsabile. Ciro. All'inizio è anche, diciamo, sospettoso, infastidito, un uomo che è abituato a vivere da solo, non vuole rotture di scatole. Però poi, piano piano, prevale qualche cosa di diverso, che all'inizio non ha nome e non sappiamo che cosa sia. Piano piano questi due si riconoscono, è come se si aprisse una zona franca per entrambi, questa casa dove sono tutti e due nascosti, perché di fatto anche lui comincia a nascondersi. Eh sì, perché sostanzialmente i camorristi sono alla caccia di questo bambino, quindi iniziano a presidiare il palazzo, a controllare, e lui esatto. Si nasconde invece in un soppalco. Sì, c'è soprattutto un ex allievo che ormai è passato alla camorra, il quale appunto è mandato lì perché vogliono escludere che sia nel palazzo. Ma diciamo da quel momento dentro questa casa per i due, da questo sospetto iniziale, da questo essere diciamo ritrosi entrambi, si prefigura quasi un training emotivo nuovo che li porta a imparare un alfabeto che nessuno dei due conosce. Diciamo il bambino non ha avuto chiaramente un'educazione sentimentale, perché è nato in quei quartieri dove tu devi crescere subito e devi diventare subito uno attivo nella malavita. Invece lui è come se si fosse precluso alla discendenza, all'idea di qualcuno che verrà dopo di lui, e si è chiuso proprio nel suo mondo interiore. E questo bambino invece fa risuonare una corda che è lì per lui e diventa una zona affettiva fortissima via via, e alla fine, come dicevi, si può dire che questo si riconoscono in quanto uno padre e l'altro figlio. Sì, è una paternità virtuale che tra l'altro fa riscoprire a Gabriele anche il rapporto con suo padre, perché Gabriele, lo si capisce qui e lì fra le pagine, ha scelto per esempio di vivere a Forcella, che è un quartiere popolare, nonostante la sua famiglia sia borghese, quindi anche un po' contro il volere del padre. E quindi diciamo nella seconda metà del romanzo recupererà, ma in maniera molto delicata, silenziosa, senza dichiarazioni di intenti, il rapporto con suo padre nel momento in cui vive questa paternità virtuale con Ciro. Assolutamente, perché è come se lui si fosse sottratto ai rapporti umani, anche quelli positivi, importanti della sua vita, e se ne rende conto, perché via via che questo bambino appunto occupa uno spazio che non è soltanto quello di un clandestino in casa, ma anche di una figura affettiva. Uno spazio emotivo. Uno spazio di emotivo e di cura. In questo accudimento si apre una cosa vertiginosa, ovviamente, per un uomo così chiuso, e che lo porta anche a fare delle azioni sconsiderate, come per esempio pensare di poter eliminare il problema uccidendo questo boss della malavita. È infatti uno dei momenti anche belli di questo scambio fra Gabriele e Ciro, è il momento in cui Ciro, il ragazzino, gli insegna come si potrebbe usare una pistola, no? Perché appunto nell'idea di Gabriele c'è qua. E poi invece lentamente Gabriele inizia un po' a insegnargli il pianoforte, cioè capisce che forse lui ha un talento naturale. Sì. C'è quindi uno scambio fra i due. Sì. Anche questo fa parte di questo gioco, diciamo, di questa zona franca che si apre fra i due. Ciro è l'unica cosa che gli può insegnare in quel momento. A usare una pistola. A usare una pistola. È una cosa che fa con orgoglio, diciamo. L'altro, dovendo ricambiare, l'unica cosa che può insegnargli è il pianoforte. E però, sorprendentemente, questo bambino è molto vocato. E questo favorisce anche questa apertura. Poi, ovviamente, ci vuole il gioco anche. vedono dei film, Totò. Sì, perché poi vivono insieme, appunto, convivono, eccetera. Sì, c'è un momento in cui questo professore addirittura esce fuori proprio dalla direi quasi da se stesso, perché non va più al conservatorio ed è stato fino allora un zelante. Infatti si accorgono, dice, ma come mai è assente senza aver detto nulla? Si chiude in casa con questo bambino e non vuole perdere un minuto di questo rito con questo bambino, cioè comincia una fase completamente diversa in cui si autoreclude col bambino fino a quando poi non è costretto, perché capisce che gli eventi stanno per precipitare, soprattutto perché il padre del bambino è anche lui un camorrista, certo. E anche lui è diciamo in qualche modo sotto accusa, perché il boss si aspetta che questo qui glielo consegni. Quindi non c'è crede anche alla versione del padre che il figlio è scappato. Quindi paradossalmente il padre naturale di Ciro è pronto a consegnare suo figlio, perché le leggi della malavita dicono così, e invece Gabriele decide invece di proteggerlo e di mettere curarlo, a rischio la propria vita. Esattamente. Perché fa un gesto sconsiderato, dicevo, nel senso che molla qualunque tipo di remora e si avventura in una zona. Questo qui è un criminale, questo bambino, ma capisce che questo bambino si potrebbe salvare. E si potrebbe salvare in un senso più profondo del semplice salvare la vita. Può diventare un'altra persona. Ecco, diciamo che però all'inizio il rapporto chiaramente non è subito idilliaco. No. C'è per esempio il momento in cui il ragazzino Ciro si rende conto che Gabriele è gay e quindi insomma usa nei suoi confronti anche delle parole aggressive, volgari, e invece poi a un certo punto gli chiede scusa. Esattamente, sì, perché diciamo il codice è quello, è un bambino che è stato abituato a pensare che quel tipo di uomo debba essere trattato con volgarità. Dopodiché capisce la delicatezza di quest'uomo. Capisce anche che ci sono in ballo delle cose diverse, dei sentimenti che sono completamente diversi a quelli che gli ha insegnato il padre, i fratelli, e sente di dovergli delle scuse. Addirittura sente quella scena stessa di voler essere protetto. Sente che questa rottura lo fa di nuovo tornare a uno stadio di bambino ancora più piccolo, e quindi si va a coricare accanto, nel letto accanto a questo professore. Quando il professore lo si risveglia è un momento, ecco, proprio fondante, cioè è quasi stupito che questo bambino, è grato a questo bambino perché gli sta dando qualcosa che lui non pensava più di poter recuperare nella vita, nel senso della vita. Non si sa alla fine chi salva chi, perché ognuno aiuta sostanzialmente l'altro. Questo devo dire che è un po' anche questo tipo di città, le città italiane, in particolare le città del sud, sono degli arcipelaghi mostruosi dove in realtà convivono a un passo il sublime e l'orrore e l'orrendo, e a volte non si incontrano mai, a volte come in questo caso invece si incrociano e può capitare appunto che cambi la traiettoria dell'uno e dell'altro. Ci sono anche delle scene molto belle in cui Gabriele veglia proprio mentre Ciro sta dormendo. Quelli sono proprio i momenti in cui secondo me avviene questo passaggio di paternità virtuale, perché se tu guardi una persona che sta dormendo vuol dire che c'è dell'affetto profondo e del senso di protezione. Assolutamente. È come se ci fosse, questo bambino incarna anche lo stupore, tutta una stagione della vita, il senso anche dell'innocenza, che è un valore molto importante, ma è anche Napoli, perché questo professore è come se non avesse più visto la città profonda, è come se fosse veramente isolato da tutto, in una sua bolla. E quindi questo bambino che riappare, abbiamo presentato a Roma il libro con Dacia Maraini, e Dacia ha detto una cosa che mi ha molto colpito, ha fatto un accostamento con un libro di Conrad che amo moltissimo, si chiama Il compagno segreto, dove nella tolda della nave questo capitano a un certo punto trova un passeggero che è arrivato dal mare, e comincia un dialogo in cui poi alla fine si svela in maniera profonda con questo qui, che è un compagno segreto appunto, come è un compagno segreto Ciro. È come se venisse fuori da un mare profondo che questo professore non ha più voluto guardare. Domanda flash, visto che sei un regista, il bambino nascosto lo immagini anche sul grande, sul piccolo schermo, a teatro o no? Comincio le riprese il 14 aprile. E allora direi proprio di sì. È un film che farò con Silvio Orlando nella parte del maestro di pianoforte, con un bambino di Napoli che abbiamo trovato dopo aver fatto 1000 provini. Quindi sì. E direi proprio di sì, insomma, nella tua vita cinema e letteratura si incrociano sempre. Si incrociano sempre, sì. Sono uno schizofrenico perché faccio anche opera e teatro, quindi diciamo che sono proprio al completo. Grazie Roberto Andò, ora in libreria con Il bambino nascosto, pubblicato dalla Nave di Teseo. In questa puntata avete ascoltato le interviste a Viola Ardone su Il treno dei bambini, Roberto Andò su Il bambino nascosto. Musiche: Acquarello napoletano nella versione cantata da Mario Abbate. L'ottetto di Schubert di 803 in fa maggiore, suonato dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. In regia Paolo Corleoni. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook, alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24, ma anche su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo Il. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.